capita, ci vado sempre. Sì, già mi devo essere da una parte, ci ha avuto che il suo figlio l'ha dato via a Sassari, l'850 PS che era una moto, un salotto camminando, una moto da turismo, l'ha dato via a Sassari, l'ha dato. E niente, mi è arrivato il suo Suzuki 380, mi è arrivato, ma non ci vado più là perché non è più quello, mi piace attenerle perché i miei figli sono appassionati, però di andare in Cina non se ne parla nemmeno. Vabbè, andare a qualche motoraduno, qualcosa, non ci vai. E tanto le mica devono correre, le fanno le passeggiate. Di Marcisco come Baracchini, se non le muovi, buonasera. Mi sono stufato, hai capito? Ma mi piacciono molto le moto d'epoca, Marica, però non è più Puglia come la volta. Non è più Puglia e mi sono capito, me le guardo in garage, me le guardo. Anzi, c'ho i documenti, li avevo attaccato per non tentarmi, ce li ho a mamma, cosa faccio? Targhe e libretti, proprio le lombardate che abbiamo fatto. Ma è entrato qualcuno che ha detto che se non li usi si marciscono come baracchini. Guardi, io sono, buonasera a tutti, doppio rumo. Io l'ho detto, Capridu, se non li usi con le moto le lasci ferme, piano piano se ne fanno decomposizione. Yeah. di salute, perché a Gianni non ci sono problemi, a Gianni non ci sono problemi, solo a te no, non sento, hai capito? Tema le salute, perché ne ho approfittato adesso a venire qua, cavolo. Per Mario e dopo ci penserà lui perché non so che ci sia di altro. Avanti Mario. Mario. Metti già se vuole una 35 c'è gente. È fabile. Attento Marce. Oh, guarda, avanti che mi chiama. Un attimo. Doppio Ru. Ehi, avanti tu Alice, avanti, dai. Sì, ascolta Mario, in banda va bene il baracchino, in M invece non esce, MFM, perché se ne è mettato già ne ho più di un figlio, ma in realtà ne funziona. Me lo dici, siamo a posto. In finale non c'hanno niente, non preoccuparti, quindi la spesa è modica. E allora si può mettere a posto tranquillamente? Ehi, se si è mettato Gianni, lo primo può fare, siamo entrati a rompere le palle. Ero io stavo provando, mi senti, con l'Abibus. Lui, mascalzone, potete avvisare. No, ho detto che perché tanti campani non rompono le scatole in queste. Ero io, in banda laterale. Perché lei ne prende largo il suo invece. Vabbè, non è problema, perché prima non c'è niente e quindi questo è il modulatore. AMFM, non c'è problema. Di fronte al finale non sappiamo niente, almeno il modulatore si può cambiare. Va bene, va, ok. Alessio era, stava provando una parata e vada laterale. Aspettino. E non potevi avvisare che la blu vendeva apparato. Cosa ti dico? Ero io? E a te che te lo faccio sentire? Si sentiva? Non molto forte, ma già si sente. Ti parla laterale. Invece lei, FM non esce. Vabbè. Probabilmente sarà qualche cosa che comanda la frequenza lì, da lì. Ma è troppo duro, ma è troppo duro. Che è una fesseria per quello, non è un problema. Vediamo se teniamo l'Argus. Così facciamo del turbo. Ma si trovano i pezzi dell'Argus? I? I pezzi si trovano. L'Argus è come cosa, come multimone là, quello che vuoi, già si trovano, gli andiamo a baracchini per pezzi. Recuperi così. Gaba, va bene, oggi Mario di nuovo è in sesto. Ma te, perché tu stasera l'Argus Mario? Avanti, Capri 2. E pensavo che fosse un apparato così. Ah, quando l'ho visto mi sono ricreduto. Caspita, è un bel apparato veramente. Ok, non so che lo sa cosa va a fare un po' già. Già. Yeah, fare tutto la linea di telefrequenza. 10240 11640. Capito, non è unico, c'è un oscillatore modulato per la linea di tensione, però in garanzia di quella compagnia, valvole e cristalli, sono andato a prendere quei due portatilini, i PML e l'ho visto, no, lo stanno a casa, ma ho trovato troppa bollezza che ho portato, quindi. Ma lì si rovina, si rovina. Anche le moto, una cosa è pulire le moto, una cosa è farle andare. Il motore deve girare, è prezioso, si deve girare bene. L'olio che c'è dentro, il duranto, deve andare in moto. Quindi qualche giorno ce l'organizziamo, una cittarella in moto, ci troviamo tutti al quadrante. Io è negativo già, non mi viene la moto più perché qualche giro in paese, il mio staccato anche l'Italia, le due moto che le ho portate da mamma. Ci facciamo un giretto, noi partiamo da Sassa, ci facciamo dalla zona del mare, partiamo da Sassa, andiamo a Plantamona, poi facciamo Porto Torre, stasera Porto Torre, Plantamona, Castelsardo, poi torniamo indietro. C'è scritto praticamente Rissa, Olbia dopo lo spettacolo. No, ho trovato il concerto proprio, che cosa su YouTube, il pezzo di concerto che hanno fatto a Olbia, come quelli che mi hai detto tu. E qualcuno che li ha messi allora, che è stato lo spettacolo, li ha fatto i filmati, li ha messi, perché prima non c'erano, l'hanno messi da poco sicuramente. Avanti, Mario. Danni, hai sentito, non tentarmi perché io sono vecchio, ho 50 anni, non manco burro. E devi mezzo 57, cosa tu vuoi sia di lì? Ma io te l'ho detto che sta diventando ciabattone, si sta facendo più vecchio di quello che è. Allora, si va a 96 anni, come ti viene via mio padre, che si lascia proprio andare, di brutto. Mio padre ci ha ragione a dire, vieni. Tutti gli amici miei sono morti, adesso tocca a me, però ho trovato pure 96 anni. Ok, già, ma io le ho fatte, tu non te lo puoi immaginare. Una cosa turistica, una città turistica. Lei mi ha detto di non toccare più la che le ha molto la che ci vuole portare. Non vuole prendere molto mia moglie. Era tua, vero? Dicimi che sto scendo un attimo, prendo la moto. Un giorno, guarda, l'ho presa la Marchitre, metto in moto già proprio. Niente, come quella con le luci che c'erano la marmitta schiacciata alla fine nel terminale e rimaneva quella specie di chioso. Povera e non invece marmitta. Avevano quel volano grosso, ma sono belle, sono belle, almeno non dico molto, ma una volta ogni tre mesi gli avrei fatto fare un giretto, non grande, ma un giretto, e tanto per quello che si paga di bolle di assicurazione, per quella moto d'epoca è una fesseria. Io l'avrei messa in regola, non dico tutti i giorni di pigliarle e di fare, ma ogni due o tre mesi l'avrei messa in moto e avrei fatto fare un giretto, ma giusto per tenerla sempre con l'olio che gira dappertutto, capito? Che funzioni bene il selettore delle marce, quella roba lì, giusto per fare un giretto, boom. E nella mia, nel tuo scatti, nella pittura che fa già, lasciarle ferme la batteria, tutte queste cose qua si rovinano. Ha ragione, e poi ogni tanto ingrassarle, io anche alla mia, adesso che non la sto usando, che dopo che ha avuto questi infortuni e poi ha fatto freddo, quindi è un bel po' di tempo ferma, io ogni tanto scendo, un'ingrassatura a cavalletto, un po' di olio nel coso dell'acceleratore, insomma qualche cosa, qualche manutenzione la devo sempre fare. Io già era sempre, qualora me lo riscambio, già erano sempre tre riunirati, ne avevo, e me ne erano arrivate tre di quelle moto, dal 250, poi me ne ho fatte fuori, capito, perché ce ne avevo questa casa prima, ero Marazzego dove abitavo io, e non in affitto, dovevo aggiustare la casa, me ne ho venduto e poi mi ho lasciato il Marchi 3. Sempre piano, l'ultima volta che ho provato la mia, perché ero un po' incredulo, no? Stavo scendendo a Porto Torres, sono arrivato lì dopo il bivio di sorso, che c'è quel rettilineo delle Liuni, ed ero intorno ai 140, gli ho detto, e c'è a vedere che cosa fa, ho provato a tirargli l'accelerata, ma un'acceleratina così, ho fatto il tempo a guardare quanti chilometri ed ero già 270, e gli ho detto, molla tutto e cammina piano. Invece se deve molto di 30 anni, infatti lo compro. Partita, già di doppio room, cambio. Ciao Luca, allora, ben sentito. Marco la c'è un magone, ho la porta. No, pare di no. Vista, ne si è stufato, lascia cancare due anni in offre dei buoni. Il lupo non lo so fare, che c'è qua? Tu l'ascolta, non lo sai fare. Siamo io, Mario Manser, Antonio, Pomponi, Capri 2, io. Se ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa. Adesso non mi viene. Avanti, Lucrezia. Però se sei io, sono sempre così sparato, lo sai, noi mi conoscete, però lo faccio per cattiveria. Se la prossima volta faccio ascolto non c'è problema. Tutto qua. Ciao Mario, ciao Capri 2, ciao Antonio, ciao Pierpaolo, ciao Mario, ciao Roberto, così. Allora ti Mario, ne prendi più felicitare perché non ho capito bene Gianni i nomi che mi ha fatto. Ciao anche a te Gianni comunque. Vai Mario. Eia, ciao Luca, no, la portante se n'è andata, si è seccato lì, dopo pure si è staccato in luce. Niente, tutto tranquillo. L'aveva vedendo di moto, a te le moto non ti piacciono. Sì, grazie, la moto si la macchina di Formula 1, no? C'hai un altro appassionato di moto, me, Capri. Ok, ciao Luca, buonasera. Speriamo che faccia andare bene perché sta parlando di lui in questa stazione. Niente, ma se mi ascoltano, no, non solo per la conoscenza di altri giorni, forse c'è l'antenna piena d'acqua. Ok, benissimo, ma c'è anche Antonio, c'era, dalla stazione di Pierpaolo, lo prova a chiamarlo a uno e all'altro. Avanti Antonio o Pierpaolo. Dunque ti ascolto la bomba qua, Capri, Segnale 5, la radio super, la bomba. Benissimo, avanti al tuo. Ma no, non l'ascolto io Capri 2, ascolto un po' e basta. Perché è troppo basso. Qua mi arriva fortissimo, ma la radio è forte. La radio bella, bella prepotente. Gamba. Ha detto una persona che la solita della rete. Insomma, della montagna che fosse, e poi ce l'ho appiccicata al petto la bella. Gianni, io lo so, ma appena fatto il lavoro, non ha lasciato di fare, riprendi già. E a maggio mai, quando la vedo, in piedi che si antenna per la Irta come voglio io, allora ci credo. Ok, non ti preoccupi. E come si chiama già? Mi sono lasciato andare, capito? Poi è iniziato il tempo brutto, è iniziato. Però come la voglio impiantare io dentro, a farle all'uscita del tetto, un piccolo traliccio, partendo dalla soffitta con quei cosi che fanno i suoi uomini per il caminetto. E dopo da lì le faccio una gettata di cemento e ci metto un bel palo in uscita e lì in alto. Possibilmente che sia l'altra marca di antenne, quella ci trovi. Bella idea. Ma il vicino di casa cosa dirà? Era in preghiera, come è venuto, ci ha buttato subito l'occhio al vento, prima non è fatto la mini gran play, non è fatto le antenne del digitale, bellissime perché non è che aveva, e ha notato la nuova parabolica, sarebbe controllando, già sembra di quegli ispettori di polizia investigativa, nessuno se ne racconta lui come gli è entrato. Salutato la moglie che gli ha fatto anche gli auguri davanti a me. Perché la moglie, di cosa? Di dove è Francesca? Di una sera. Lo dici da me. sta. Una vera vicino a me, dici così. Parlo perché lei c'ha i suoi genitori, lui però è la Salinurri, però è la madre è capitolo di Sassari. Comunque è un ingegnere elettronico quello di Sassari. Mi dà fino a qua se lo si ricatto lì. Sì, ma scinga, sia. No, sono di quelli che rompono le scatole. Ma se non ce l'avevo, però è tutto già successo. Sono parcheggiato con la macchina vicino a casa e sento questo qua mi bussa il finestrino con un cane. Lei dice qua non la può parcheggiare la macchina. E chi gliel'ha detto? Cos'è di un vigile per lui questo? Chi gliel'ha detto? Perché io quando esco dal garage non ho la visuale libera. Non ho la visuale libera, cosa posso fare? Se qua non c'è parcheggio, la parcheggio dove capita la macchina. Interessante che lei passa. No, passare già passo, ma mi tocca sporgermi troppo per vedere. E molte volte è successo che per poco non mi si sbatta. E detto, lei mi cerchi un parcheggio e io l'accontento. Se lei mi trovo un parcheggio dove devo scaricare la spesa, gli ho detto cosa faccio? E dice, no, ma allora come non ho detto, guardi comunque che ci abito 20 anni, qua lì, tu li vedi, io 21, giochiamo a cella, cazzo, poi ho bisogno dell'asilo, un uomo anno. Detto, ascolti, se lei me lo chiede cortesemente, io posso anche aiutarla e controllare se ci sono altri parcheggi per non disturbare lì, ma se lei me lo chiede così con prepotenza, ottiene molto poco, io la continuo a parcheggiare la mano. Yeah. le lasci che te la portano al padrone a dirti guarda come la prima mi è fregato. Avanti, dimmi. Ricco, dici, ti ho rilanciato il cosa stai aggiustando? Sì, sta prendendo il corso, l'Arcus. I suoi bulloni sono tosti con la palla, cara. Ma è a bulloni di quelli esagonali? No, no, sono piccastrella, so. Ma sono tosse. Forse da molto senza aprire. Gava. Ah, non l'avevi ancora aperto, Ricco. Guarda che quell'arco c'è vergine mia ancora, a Pompucco, è vero, quello lì io ce l'ho già 20 anni e più, e non è stato mai toccato, tu sei sverginente mia va. Mario, dice Fabio. Dimmi. Quindi tu l'hai preso nuovo quello lì? No, io l'ho preso a seconda mano, me l'ha dato un vecchio CB che forse voi non avete conosciuto. Allora, quello lì era di Marco, non ti dico il cognome perché non va bene. Poi lui si aveva cambiato l'apparato e quello lì l'aveva dato a Cacciavite e Cacciavite l'ha dato a me. Mi ha voluto conoscere tutti, perché ci sono parlati di te in frequenza, quindi li ho tutti conosciuti, di Cacciavite, Marco, non lo so, il nominativo com'è? E Cacciavite, Cacciavite nominativo, che poi era Sandrino come nome. Marco non me lo ricordo con quale nominativo usciva, ma ti sto parlando di un bel anno fa, me. Io ci arrivo. Quando tu mi parli fino a 30 anni fa, 32 anni fa, io ci arrivo. Comunque, se hai conosciuto Marco, hai conosciuto Cacciavite, Marco prima c'aveva quello lì. È stato il suo primo baracchino, poi l'ha dato a Cacciavite, poi Cacciavite l'ha dato a me. E niente, però quello lì in tanti anni non è stato mai toccato. Cava. No, pensavo fosse nuovo perché tu mi hai detto che era vergine, quindi deve essere comprato nuovo. No, è vergine perché, niente, da quando l'hanno comprato loro mi hanno detto sempre che non era stato mai toccato, che era tutto originale. Cavagava, è durata abbastanza, 20 anni, in più vi la viene a su lui, saranno passati quanti anni, 25 e 30 anni. 33 anni. Se le cose sono state bene, c'è dura. Pagappa. Molti si fermano perché li lasci fermi senza usare, quindi si scaricano condensatori, tolgono acido, sporcano tutto il circuito, cose del genere, quindi cominciano a rovinarsi. Antonio, riprendi. Che c'era Luca il partigio qui. Luca, va. E se deve essere stancato. No, Luca fa sempre così, dai, entra, poi si assenta, sta un po' al coso, al computer, e poi ogni tanto rientra, no, fa sempre così, Mario. Io quando ho il computer, la radio la spengo e mi gioco col computer, se sono alla radio, sono alla radio. E lui invece fa due cose contemporaneamente, ci ascolta e sta al computer. Così almeno si distrae con la voce nostra e allo stesso tempo fa altre cose. Anche Antonio è partito, Antonio avanti. Antonio non sta riprendendo, non lo so. A chi aspetta, capi. Parla tu, avanti. Aspetta, confermato, la lì. questo momento ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne ho 8 accesi, più 9 è quello che sto chiacchierando. Ok, no, lo fai bene, ma io, è la mia negligenza, molte volte che c'è la passione santa e che ciò di queste cose, però ciò non ha che molto, non mi sono di la negligenza, ecco, a fare quello che ho fatto, a scenderli, anche se non li uso a farli scaldare, come si vuol dire, a farli circolare la corrente elettrica, so che sono stati lasciati spenti perché erano in garage, sono stati in casa, non era capitato, riprendi già. Li hai abbandonati, e loro si sono difesi. Sempre con un deli e niente, il cassone è bello grande, 4 metri per 2, così che non c'è nessun problema, carichiamo tutto sopra. Parlando che non ho seguito. Sì, sempre delle collezioni di Capri 2, dei suoi amici, dei baracchini degli anni 80, tutte queste cose belle qua. Già erano belli quei tempi là, erano quelli che non fatto, ma brutti dall'alto. Secondo me gli apparati di prima erano migliori, ce n'erano stazioni base belle, le stazioni base non ne fate di più. Perché sono gli apparecchi più piccoli ma con grandi prestazioni, è così la tecnologia. Ma della tecnologia non me ne ha fottuta, mi piacciono le stazioni base, punto, e basta, e mi tengo con la mia stazione base. Purtroppo non si la persona come te, adesso le cose sono cambiate, io penso diversamente, io ne ho una e quella rimane, non ne voglio altre perché mi passano troppo ingombranti per me. No, non le posso tenere, capito? Mi piacciono, però non ho il posto. Sì, sì, ma diciamo che io sono adeguato a tutti i tempi, quindi tu lo sai benissimo, c'è anche un apparecchio di ultima generazione, però ne ho due, ne ho tre, ne ho quattro di ultima generazione, però mi piace specialmente le stazioni di base che facevano prima, non tutte, però ce ne sono molte che mi piacciono. Mi piace, ho visto come sono, mi piace quello che hai tu. Quello che ho io mi piace, va molto bene come apparecchio. Non mi piace molto il Royce, lo sai? No. Me ne piace qualcun altro che ho visto. No, però mi piacciono più questi piccolari così mi piacciono come apparecchi. Sono un po' più, non lo so. È sempre una questione di gusti. A me piacciono molto, a te Mario, ti piacciono le stazioni base degli anni 80? Guarda che io ne ho visto diversi, ne ho visto anche qualcuno a casa di Mario Mao, simile a questo mio, però col mobile in legno, adesso non mi ricordo il nome, però erano bellini, non è che erano brutti. Io per esempio come stazione base ne ho tre, c'ho questo Midland, poi c'ho il Saturn Echo e il Coso come stazione base e l'Argus, poi c'ho un bel poco di baracchini di BM e poi c'ho 3-4 portatili e poi c'ho il Royal Esu e il Kingwood. Io ne ho una sorta sulle basi cerutanasi, lo sai, no? E poi diciamo che ho un baracchino di nuova generazione, un bel baracchino che funziona abbastanza bene, completo di tutto. E poi c'ho Midland Alan 48, 3 Alan 48 di cui vivono il blues, poi c'ho due portatili, non ne ho di roba, però tante volte penso che bastano due baracchini, uno portatile, una stazione base, è fatto io. Avanti, lisci. Dimmi Carlina, che problema? Vabbè, aperto l'abbiamo questo sarcofago. Aperto il sarcofago, c'è un transistore bruciato. Il modulatore per la M, FM, il resto è a posto. Adesso siccome c'è un apparecchio di qua che meno male, è quasi uguale. Adesso vale, vediamo un pochettino, perché sto facendo un gruppo dove c'è una lampada e quindi non posso usare niente. Domani faccio la prova, se funziona è a posto. Gappa. D'accordo? Questo sia molto attaccato perché è un bel apparecchio. Dani, ci stavo dicendo, quando sarà finita, che vi metterò anche i video in questa vitrinetta, ti faccio venire a casa così vedi la mia piccola stazione. Infatti a Manessa è la mia, sono 5 in arrivo. Senti, a che ne hai tu autore di quell'apparecchio? Io lo conosco d'Argus perché l'avevo fatto a Mario. Infatti, ad esempio, l'ultimo lettere è preciso, perché l'ho aperto dentro e l'ultimo lettere è uguale. Se tu ce l'hai uguale, proprio non ce ne sono. Me lo porti, al limite, me lo saliamo, usciremo con Mario uno di questi giorni. A terra tua, così tu, te lo prendo e te lo sistemo. Guarda che sono io, sto trovando con l'apparecchio di Mario. In manatrale esce bene, in AM non esce, AM7 non esce, a parte che abbiamo un attore, domani la cosa è a posto, capito? Se vuoi te lo provo te lo faccio sentire, non c'è problema. Anche adesso. Vado in USB, arrivo sul palco e mi senti, perché mi senti, guarda. Se sono i finali buoni, se sono buoni, sono 1 e 2 più un modulatore. Sì, state cose a voi si sono da cambiare, se sento le condizioni che non mi sembra che lo permette, se non è come quello di Mario, quello di Mario esce, l'ho sentito, poi è tutto da rivisionare. Già mi sente. Già ci sono io. E magari da vedere quale qualche fesseria. Lascia perdere, magari. Lo fai vedere se è il caso di farlo, lo fai, se no te lo tieni in vetrina, boom, se devo dire. Comunque Roberto è in condizione di fartelo, te lo fa, non c'è problema, perché ne ha fatto di peggio. No, no, è lì, come si chiama, io ho fatto dove, non c'è problema a trovare i pezzi. Mi fai la tua scelta, io lo metto lì qua. Comunque è interessante che ci sia uno che te lo metta a posto, poi. Comunque aspetta, Gianni, Capri 2. Aspetta, ma no, perché prima è interessato col mio, eh. Io ce ne è questa, per farci, lo secondo. Non è un giusto collino, perché già l'hanno visto, già mi ricordo di accordo, quello è il suo mercato. Per me, sa per che cosa. me non me ne frega niente la verità di avere un kill. Io l'ho già, sono tante. Cosa me ne faccio di dare un kill in più, puzzato? Io te lo regalo a qualcun altro e basta, è tutto lì. Lo stavo regalando. Tutto lì. Ma è una cosa, guarda, non crede a tanto. Dile Mario. Ho detto, se te lo regalo, non piglialo, lo dai a me. Lo metto in vetrina anche quello. Se me lo... se lo prendo gli occhi, non glielo faccio male. Che questo qui sta pensando di fettare, Va bene, ok. Ma sembra cazzo quando vuole un euro trofeo, sembra che le... mi sembra la verità, mi sembra di essere... In un mondo, quando uno piglia una tigre, una pantera, cosa del genere, cazzo, mi trova la... Se io ti do una cosa, il regalo, se ce l'hai già, cosa te ne fai, la verità? Che cosa, per venderlo non conviene per niente, la verità. Io la penso così, comunque se me la regalavo, non c'è problema, te la do Mario. Ehi, non c'è problema, dai, se capita va bene, se no... Oh, va bene anche così, mi non c'è nessun problema. Io gli arrosai non vedo nulla. Io non c'è problema, non preoccuparti. Se vado là, sono a posto, tutto non c'è nessuno. Appagappa. Mi sembra di essere mezzo di avventura, no? La verità, guarda. Come ho sentito uno che era un baracchino, che era stato le basi di Alessio, per dire. Che c'è il primo, c'è 80, c'è il... Galaxato Neco, se mi ricordo così, subito qualche cosa si può fare. Dai, dammi Galese, dammi tutto. Dammi la fare, no. Non è possibile, ma siamo un po'. È una cosa ben strana, la verità. La 27. Sembriamo, allora di cosa abbiamo? A Pestonia. Hai finito, Ali? Siccome so che tu non avvii nell'oro, te l'ho dato questo consiglio per farti qualche soldo, poi fai come ti pare, fai come credi. Io me l'avrei, se me l'avessero regalato l'avrei preso, poi magari l'avrei fatto io un dono, l'avrei regalato a una persona che aveva bisogno o cosa, però siccome so che tu non avvii nell'oro, allora ho detto te lo vendi e poi qualche cosa te la realizzi, te l'ho detto per quello, non per altro. Allora, non hai capito niente tu allora cosa sto dicendo io. A me lo stavano regalando, che scusa non c'era niente quello che hai sentito adesso. Io so che non avevo un logo, ma non vado a venire gli apparecchi per campare, che cosa è questo? Tu hai capito male. A me lo stavano regalando. E se cosa mi faccio una farina così? Non mi faccio proprio niente, ma lo regalo un altro per dire. Non è che io arrivo nel loro che ho bisogno di soldi, cose. Assolutamente, gli apparecchi rimangono qua, però uno non deve approfittarne perché uno magari ha problemi di soldi per pigliarsi l'apparecchio magari che lui chi l'ha comprato, l'apparecchio di 600 euro, poi lo vede 200, non esiste di questo, tu lo senti di me. Io non ho fatto quel paragone assolutamente, Gianni, e tu lo sai, quindi io sto facendo solamente il paragone se perché gente ha gli apparecchi. Che regalate, ma cosa me ne faccio? Non me ne faccio niente, la verità, non esiste, no. Cosa me ne faccio di 25 apparecchi in casa? Preferisco far regalare un altro per dire, capita uno qua, che sembra l'apparecchio, ma c'è uno per far venire, se non sta regalando, ma prendi a te lo mangio per dire, Gianni, quello che è. Vabbè, io me li ho sempre comprati gli apparecchi, non me ne ha mai regalato nessuno. E appunto, io me li ho comprati gli apparecchi, ma non vedo cosa... C'è gente comunque che ti regala gli apparecchi, eccetera. A me li hanno regalati nella Mondetta, e tu li hai visto. Mi hanno regalato di Intec, di 34 canali, che li ho visto tutti io, di WhatsApp, che li ho dati a un'altra persona. Non è che li ho regalati, non è che li abbia venduti per ripensioni, perché non sono tanto bisogno, non sa. Io so che mi vede ancora, anche se parecchia gente pensa di sì, ma purtroppo non è così. I rapporti che mi sento a casa, se sono molto di fame, preferisco prendermi, per dire, altre cose, ma non mi che mi vede per il baracchino per scappare, me la voglio. Vabbè, finito qua, avanti, capire due. Oh, che io ormai, un castello spero, una proiettiva di fatto caso, prova a parlare. Io qui non ho toccato niente, le cose sono come lasciate. praticamente per Paolo intendeva dire, che Capri 2 praticamente più la barica scaldava e più usciva bene il radio, punto, non ha detto altro. ha detto una cosa positiva, non negativa. Infatti, io non ci ho fatto caso, non ci ho fatto assolutamente caso, perché, hai capito, come lo lascio, molte volte tutto può succedere in qualsiasi stazione radio, nei milioni di che ci siano, succede sempre qualche cosa che molte volte non si ascolta bene, e molte volte poi si riprende, e niente, di queste cose, non è che ci faccio molto caso, ritrovare quando ci sentiamo, se arrivo a Santiago 3, mi pigliano Santiago 3, se arrivo 5, mi pigliano 5, l'importante è sentirsi, e poi di altro, non ho toccato nulla io, non ho toccato niente, ho lavorato solo dalla 48, passere e basta, e arrivava molto più basso di questo. Però, qui c'era anche qualche cosettina, magari c'era il PL, magari molte volte che la massa non la fa bene, infatti già arrivato la distruzione, non trovo una guarda, tutte le cose piccolette sono che però non è che ci sto attaccato sopra, sento però anche l'azione è molto molto molto più sta andando e più sta aumentando, io non lo sento ma parecchio perché ce l'ho qui, capito, non mi posso sentire da un'altra parte, comunque l'importante è ascoltarci, niente di altre cose, come se fosse per Paolo, ha provato un'altra antenna, adesso non l'ho ascoltato, io l'ho ascoltato, Santiago 2 è riuscito a capire. Guarda Gianni, che tu in pratica sei lineare, quindi se tu bombi più scaldati e più usare il segnale di oro 7, ti rimedisco se quello. Come lo so, io non penso di aver fatto un sopello a nessuno, grazie a Dio. No, come un ragionamento, non è che stiamo andando, diciamo, hai capito? Io è come l'accendo è la roba, è sempre allo stesso livello, hai capito? Sono cose come piccolette, non bisogna scaldarsi più di tanto, ognuno ha la propria diciamo, opinione, poi se uno non va bene l'altro deve rimanere nella sua opinione senza andare a bisticciare con questi discorsi, a fare chi fa, niente, non c'è bisogno di arrivarci, riprendi già. E dai, ma Antonio lui deve essere a qualche cosa, perché per ogni cosa si attacca, e non lo so che sia successo qualche cosa dall'antenna di stasera, dal fatto di stasera che se l'abbia presa, non lo so, vabbè comunque non è successo niente, io non l'ho mai chiamato a voltuio, non le ho mai detto cose del genere, quindi ritengo che sia rispettato anche io parlo per me. Tu non hai detto niente già, la verità, comunque non lo so come. Io voglio chiudere la parete, Gianni, però io non ti ho detto niente di offensivo, invece tu mi hai offeso, hai detto che sembriamo tutti avvoltoi, ti avvoltoi. Io la roba che ce l'ho tutta pagata, mi avvoltoi non ho fatto con nessuno, e la gente lo sa, io la cosa prendo sempre con parate in contanti, non ha mai dato modo di dire mi deve pagare quello, mi deve pagare l'altro, quindi l'avvoltoio non sono io che l'ho fatto, lascia perdere. Avanti Mario. Aspetta, Ferdi, volevo capire adesso questa cosa qua. Non lo sto facendo a voi, la verità, comunque c'è tanta gente che fa anch'io. Hai capito? Prendo le riscatte degli altri, quindi la profitto, il discorso è quello. Non sto parlando di altro, già. Non sto parlando di te, nel senso quello neanche di cosa, la verità, perché è vero. Mi parlo degli altri. C'è che un sacco di gente che sai quando vuole prima la telefonata a me, a dove sei in quelle condizioni, aiuta, prendimi il costo Fondeco, 100 euro, hai bisogno di soldi, hai capito, ma ce la faccio io. Se l'ho venduto tanto, me lo sono fatto così, a prendono, hai capito, perché ho bisogno di soldi, non ho assolutamente bisogno di soldi. Assolutamente, non va hai capito, a fare una cosa del genere, andare a approfittare delle cose degli altri, scusi quello lì, a telefonare, non va, già, ti do le faccine anche a te, la verità, perché io le cose me le sono comprate con i soldi miei, non potevo cioè svendere, perché cosa? Perché ho bisogno di soldi, non esiste. I soldi mi sono arrivati adesso, mi è arrivato l'assegno, 10.000 euro, adesso mi compro quello che voglio io. Non è che non posso prendermi la roba, la verità ferita, però voglio che nessuno venga a telefonarmi, ha bisogno dei soldi, vendimi quello, vendimi quell'altro. Ti deve partire la testeggia, secondo te, sì o no? Vabbè, darebbe fastidio sì, ma uno non lo fa magari anche perché lo fai sotto per l'aspetto. Uno magari non lo fa perché ha bisogno di soldi, non interessa magari la panicchia, il panicchia se glielo vedi. Guarda, Antonino ti ha telefonato davanti a me e ho sentito quello che ti ha detto, ti ha detto se glielo vendivi perché c'aveva quella cosa affettiva e lo voleva per quello, ma non ti ha parlato di quello, perché la davanti a me ti ha telefonato e mi ha detto mi piace la panicchia, ma non è solo quello, è perché c'era una persona che io ci tenevo, eccetera, eccetera, eccetera, e lo sa. E poi se c'è gente così che fa il curmai, ci sono sempre state quelle persone, però non mi sento di qui. Appunto per quello sto dicendo, c'è gente che mette a porta a casa, ha bisogno di soldi, così molto di fare, cosa del genere. No, assolutamente la panicca non si muove da casa, né il salto un ecco, e tanto meno si è tanto. No, ma non sbatte niente, la panicca rimane a casa, a costo di regalarli. Però non li vendo, la verità non li vendo, e rimangono lì. Il discorso è chiuso, mi sta ascoltando che vuole che io vedo già la panicchia, cosa la già. Il discorso è chiuso, stato un ecco, il 680, anche l'altro panicchio, quello che ho pensato io, il Galaxy 200 per dire quello che è, non si vede niente. Ma gli apparecchi sono chiusi, basta, gli apparecchi sono di regalare, a regalare ce li ho, quanti ne vuoi, però a vendere niente, mi dispiace, ma i soldi sono rifatti e sono a posta, e sono tranquillo. Meglio così, Ari. Meglio così, organizziamoci una bevuta, allora. Sto scherzando. Ma certo mi hai dato una bevuta, certo ce l'ha fatto con i... Sembra di essere cazzo con i codi, cosa mi sei fatto a posto mi secondo te? Sembra di sapere le vittorie a fianco, per la voce, non esiste, no. Approfittarmi di una persona che ha bisogno, no, assolutamente, anzi al limite la posso anche io usare per dire. Ma se veramente super una volta mi regalato 1.000.000 euro a ognuno che ha bisogno, però approfittarmi di gente che ha bisogno di soldi a fare lo stuzzino, non esiste, no, assolutamente non esiste. Avanti. È la cosa che io odio di più. Regalare sì, ma dare tu. Pomponio! Dimmi! Ricordati che sei 80! Già lo sai, sì! Certo, lo so, ma siccome ce ne ho bisogno di gente a pezzo con le buone gratis se sei 80. Quello bisogna che l'ammazzi, piglia il dragone e l'ammazzi, Mario. La verità si dica, tu lo sai chi è? Piglia il dragone, quando muoio io, mi piglia la testa e la taglia, non sai che per il tempo, siccome si vuole magari quel giorno che io muoio e ricoglionita, la disperazione, vieni subito, ti pigli, se ho tanto te lo porti a casa, completo. No, già non aspetto che muori, non ti preoccupare, già vengo prima a prendermelo, a portarmelo via. Vieni prima, quando sono ospedale, vieni, faccio il foglio, non sai che male, magari malestrale, meglio preferire che curare. Già lo sai Mario, qui a Baracchino, sono tutti la gente po' strana, non tutti, la verità comunque. Gianni! Gianni Antonello! Gianni! Gianni! Ehi, ti ho risposto, dimmi. Non ti ho sentito. Ascolta, sai da quando me l'ha promesso quello lì? Ha detto, guarda Mario, se mi succede qualcosa, che a me mi ricoverano, e c'ho poca vita, quel baracchino è il tuo. Io l'ho avuto anche a casa quel baracchino lì. Così che, noi me ne sono dimenticato, e vi ha dato veramente. Fate fare lo scritto. c'è già lo scritto, c'è già lo scritto, non ti preoccupare Gianni, c'è anche il Zapoteco, c'è altra roba da qua, non ti preoccupare, c'è già lo scritto, quindi da qui dopo la luna. Ah lì, sì, ma chi pensa che si così, pensa a vivere cosa sia, pensa a morire. No, forse non hai capito, io penso solamente a regalarmi la roba, poi penso a vivere sopra, così mi diverto sopra, non c'ho niente, e mi, appena mi diverto. Ehi, ehi, Mario, meglio sei 80 che ti preoccupare di da un altro, piuttosto che ereditarlo, allora. Gava, gava, avanti, capito. Ok, io già ho preso notte, ho fatto l'atto, e poi lo registrerò agli archivi locali, e anche le altre apparati ci devo mettere. No, no, basta così, c'è il Saturneco, ci sono due Inter che 340 uno dati, e poi cosa c'è? Vabbè, c'è 80 naturalmente, che un televisore, vabbè, quello non vale niente, cosa mi la fotte di quello. Non c'è nessuna altra cosa, è un portatile la verità, un teatro, è un alimentatore, bello grosso. Quindi segna per sicurezza, non sai con qualche cibo che venga in mente di rompere le spalle. Segna tu, ho fatto i dimmi. Siamo sani, Antonè, lasciamo sua macchina, siamo sani con la fai e no. Domani, non ti preoccupare, è tutto a posto per te, ci sono testimoni. Mario, e tu a chi li lascia? A me li lascia. Chi è costui? Chi è costui? Costei, non costui, costei. Costui è quello che mi ha detto del ginocchio tuo. Gianni, qui c'è qualcosa che non va, andate a Cicova. Costui, costui, chi è? Io sono già. Avanti, avanti. Il figlio di Mario sono. Ah, ma avevo capito, ha cambiato voce da fila. Vabbè. Fai anche tu la dichiarazione, hai sempre fatto a Mario. Ah, vede. Sì, già. Vabbè, ti ha chiamato voce, ma la voce più brucia, va. No, sembra la stessa, E boh. Il fatto che eravamo tutti quanti scintivi. Va bene. E va bene. E la moto ancora ce l'ha? No, non più ora, non un'altra. Piccolina però questa. Piccolina? Lì, lasciarle fuori un po' così, mi rizzacca le sempre. Dovevo avere chiuso l'ampio. No, sono qui, stavo rispondendo a babbo. Ah, mica ti ha salutato a tu. Gabba, ti ho salutato io, Gabba. E beh. E va. Bene, va bene, mi ha riconosciuto, sì. Io ti ho riconosciuto al volo, proprio. Io dopo un po'. Gabba, Antonio sono. E mi ha detto anche a babbo. Davide, ma se ti dico ma... no, ti sì. No, questo non mi hanno accettato. Gava. Perché qualche anno ne hai fatto due? Sì, mi hanno bocciato. E quindi questo non mi hanno accettato. Il prossimo anno mi accettano. Ma proprio fissato con quell'istituto sì, oppure ti piacerebbe anche se altre parti? Sì, è un altro nautico, però fissato con quel tipo di istituto. Gava. Vabbè, c'è uno piace una cosa issa che le deve riuscire. Tappa. Mi appoggio. Io te la spingo e te la sacco, poco. A te calma, non c'è bisogno. Capri. Ok, ascoltando, Davide, buonasera. Ci al 100. Porca per due. Sì, a come? Allora, ti faccio un'offerta, 50 euro per quell'Ascus. Ci stai? Pronti, ok, domani scendo con Mario e me lo ritirano, allora, non c'è problema. Io il tuo voglio, l'hai capito tu? Il tuo. Ma sì, ma non lo prendo, non vendo niente, non do nulla. Mi, l'amico di tuo è dato sacco di roba all'epoca. Niente, a te, quello che è qui non muovo una virgola più che... Me ne voglio rodere io, se quello lì a te. Capito? Non lo metterò a posto comunque. Vabbè, non c'è problema. Come non vedo. Ok, ne vado da una parte a cercarmi un po' di apparecchi allora, a poco prezzo, c'è un sacco di gente che ha bisogno di soldi, quindi devo fare un bel po' di apparecchi a poco prezzo, d'accordo? Ma dove lì? Non ti preoccupare, tu già lo so, io dove andare, adesso le cose sono cambiate, sono vicino di occhio, adesso mi dico un bel po' di apparecchi in giro. No, ma io sto dicendo, no, pensavo che vi stesse vedendo qualcuno, magari c'era qualcuno che mi interessava. E c'è sempre anche in giro, che tu fate, adesso faccio più in giro, che non piano di comunque no. Bene, bene, meglio così. Sono contento, comunque, Capri, io, Pompolio ti ha offerto 50 euro, io non te ne ho offerto soldi, però... La mia proposta vale sempre, quando tu ti stanchi mi chiami e io vengo col Delli e carichiamo tutto. Sì, ma quando mosso vai dai, se i miei figli, mi piccoli l'altro te lo prendi una, subito, e vedo che gli interessano. No, non trovare mai un cibo, però sono interessati a chi è grande. Cioè, sono contenti che ci siano in casa gli apparecchi, però non ci dico si parla. Tanto gli apparecchi non sono cose molto di valore, diciamo che è più valore hobbistico che altro. Non è così, già, non è così, perché adesso ti dico come si chiama, una cazzata, ti dico, quando è morto il nonno, c'era quella macchina che impattiva le salsicce, quella manovella, quella si aveva che incontri che tagliava la carne, tutti gli accessori, beh, se l'ha presa una mia zia, subito è successo, guarda, un macello, si sono beneficiati per due, una cazzata che si fa lì a Piazza Veselli, il lunedì per la presidia per il tiro di testa, beh, si sono beneficiati di brutto per questa scelta di roba. E poi vai in un qualsiasi negozio con quello di Piazza Tola e la truffa. Qual è quella che c'ha la cuccia in plastica che si avvicina davanti, eccetera, eccetera, ho capito qua. Non era di plastica, quel vestito che ho scritto, quello era di alluminio, era che aveva tutti gli accessori, tre spade mi sembra che si chiamava. E già un vestito vero e sono in conflitto, questo zio addirittura abita a Venezia, un conflitto per questa genetica che se non aveva la prova saltizia, la prova è una cazzata, io già ce l'ho. Me l'ho comprata a Piazza Veselli, che era andare a pedire un zagnolo, perché qualche volta le salsicce le avevo fatte anche noi e serviva in casa e non sono andato a chiederla a nessuno, cioè con tutti gli accessori che anche il pane grattugiato immaginava. Niente, per quella roba lì mi capito sul cielo, ma anche se tu dici che questa cosa è un mistica, un domani, poi vedrai se qualche giorno io se non voglio che si arrivi a tanto, hai capito? Perché come se dicendo tu sono presidente, però capito, punta ma sempre deve essere una cosa che fa succedere per il mondo. E io guarda, quello che odio sono sempre quando ti lasciano l'eredità, mi fanno besticciare le famiglie, eccetera eccetera, a meno che siano persone coerenti con le cose, e si dividono le cose senza bisticciare, ma è difficile far bisticciare anche le divinità, quindi le odio le divinità proprio per questo. Poi la gente dell'eredità tutta la vita non ha cercato quelle persone, nell'eredità sembrano curvai, cioè i corvi. 4 anni noi siamo in causa, la troviamo con l'uomo, perché quello è una parte che si è toccata già a vendere la malapuglia. Allora ci ho toccato la palla, una parte a noi, la calle, ho 3 parti, e lei vuole questa qui che ci aveva le parti, la vostra malapuglia. Succedono anche nelle migliori famiglie, quando bisogna di là la gente diventa scema, sclera proprio, si tuffa, farebbe di tutto per fregarti quella cosa che ti spetta e togliertela anche quella lì. Sì, è così, ma noi non stavamo cercando nulla, noi già, quello che ci è toccato ci abbiamo preso, il viso 3, il senso di mamma, ecco, è quello. Gianni, Mario e l'altro Gianni, capirune, c'è problema. Vado domani mattina, fatemi bene, buonanotte a tutti e due, anzi 3-3, per la mia sentita, quindi non c'è nessun altro. Buonanotte, fatemi bene, vai sentirci. Ciao Alice, buonanotte. Ah, Pompo, buonanotte, buon tutto, ce la riascoltiamo, mi raccomando, tromba poco. La mattina. Mi approfitto per salutarvi, è stato un bel QSO, ciao Antonello, allora, ciao Mario, ciao Gianni, ciao Antonio, che tanto Antonio non mi ascolta, ciao Davide, e adesso non mi ricordo chi c'era, comunque un saluto in generale facciamo, non voglio che si offenda nessuno, e niente, ascolto i Pinarini e poi chiudo e a domani sera. Ciao. Ciao. Buon giorno a tutti.